peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo due musicisti italiani che hanno comunque ormai una notorietà internazionale di primissimo piano. Si tratta di Stefano Bollani e poi di Paolo Fresu. Sono usciti con dei progetti firmati da loro appunto in quest'anno, che sono sicuramente tra le cose più interessanti che sono uscite. Stefano Bollani, cominciando da lui, ha pubblicato per una sua etichetta discografica, la Alobar, ha pubblicato un disco per pianoforte e orchestra intitolato El Chakra Canta, che raccoglie delle registrazioni fatte dal vivo a Buenos Aires, nel teatro a Buenos Aires, con un'orchestra sinfonica appunto di Buenos Aires. E, il progetto raccoglie appunto il concerto registrato, aveva in programma due composizioni originali per pianoforte orchestra e orchestra sinfonica, poi quindi originali, che quindi venivano eseguite e registrate per la prima volta, e poi gli arrangiamenti di due classici tanghi, uno di Orazio Salgando e l'altro di Astor Piazzolla. Ecco, i due concerti, il primo intitolato Concerto Azzurro, il secondo Concerto Verde. Il Concerto Azzurro è scritto nel 2017 ed era stato peraltro commissionato da Tristan Jarvi, il grande direttore d'orchestra. Quindi si ascrive tra quei lavori che cercano di interpretare quel punto di contatto tra musica del Novecento e appunto musica tra jazz, diciamo, e musica classica. E, peraltro, Stefano Bollani è un musicista che riesce a giocare su qualunque linguaggio, dalla musica pop a quella classica, al jazz. È veramente incredibile, sembra un personaggio come un poliglotta per quanto riguarda i linguaggi, e poi con una tecnica pianistica stupefacente. E, in questo caso, meno che in altre volte, si avverte la vena ironica, che è sempre una delle cifre di lettura di Bollani, che è sicuramente personaggio che ha voglia di divertirsi e di giocare anche nel palcoscenico. E, l'altro lavoro è stato firmato, il Concerto Verde, è stato firmato nel 19, e a mio avviso è anche meno riuscito. Comunque rappresenta sicuramente delle pagine importanti per la carriera di Stefano Bollani, sicuramente una delle pubblicazioni di quest'anno più interessanti. E ascolteremo da questo bel disco, intanto ascolteremo i due tanghi. A mio avviso, ecco, il brano di Astor Piazzolla è Libertango, e ne viene data una rilettura, un'interpretazione a mio avviso veramente geniale, straordinaria. Comunque ascoltiamo tutti e tre: il primo un tango di Salgan, e il secondo uno dei movimenti il conclusivo poi del Concerto Azzurro, e poi dopo appunto il brano di Libertango. Thank you. Questo era Stefano Bollani per pianoforte e orchestra, un disco intitolato El Chacrac canta, un bel disco uscito quest'anno per Alobar, la nuova etichetta discografica tenuta da Stefano Bollani. Passando a un altro dei giganti italiani che sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, è sicuramente Paolo Fresu, che peraltro abita anche a Bologna ormai da tempo, Quest'anno ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni, il compimento dei 60 anni, questo è stato all'inizio dell'anno, con una pubblicazione di un cofanetto di tre dischi composti da una vecchia pubblicazione del 2001, che appunto diciamo con una formazione piuttosto allargata, che rappresenta poi una fase storica della sua carriera, forse la fase che l'ha portato ad avere anche una visibilità maggiore, anche una definizione maggiore di quelle che erano le sue intenzioni musicali, e poi altri due che sono inediti. E diciamo che questo cofanetto rappresenta anche un po' la cifra stilistica che ha cercato Fresu. Fresu ha delle qualità straordinarie nel suono della sua tromba. Il suo suono è veramente inimitabile, quello che l'ha avvicinato maggiormente a Miles Davis come sonorità, quindi non brilla particolarmente come Davis, poi di una tecnica nello strumento, una tecnica esagerata, semplicemente proprio tutto è basato sull'attenzione al suono, un suono magnifico, veramente inimitabile. E questo suono l'ha dovuto anche, appunto, ha cercato di coniugarlo con delle timbriche particolari che fossero più affini alla sua musicalità, alla sua proposta musicale, alle sue intenzioni. I due dischi inediti sono sicuramente due pagine tra molto, decisamente molto riuscite. Una di queste è ormai una formazione con la quale lavora in concerti già da diverso tempo. È un trio, quindi guida un trio, formato da, oltre alla sua tromba, al suo flicorno, Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Jacques Morellenbaum al violoncello. Quindi tromba, bandoneon e violoncello, una timbrica particolare, molto europea, molto, molto latina, e che peraltro per la qualità dei musicisti raggiunge dei livelli espressivi straordinari. È chiaro che la vicinanza anche con evocazioni di musiche rinascimentali oppure di musiche settecentesche, insomma, sono oltre che naturalmente al jazz e a quello che può essere la musica contemporanea tout court, riescono ad avere un livello di maturità e di equilibrio veramente invidiabili. Quindi questo è un disco, appunto, un inedito, che si può decisamente ben apprezzare. Il secondo inedito è un progetto che è uscito, è stato diciamo umiliato dalla pandemia che ha impedito la possibilità di fruire dei concerti che potevano essere dati, con una formazione allargata, direi di all star tutto sommato, tutti musicisti di primissimo piano, che hanno dato vita a un progetto di reinterpretazione di musiche di David Bowie, e quindi riletture, arrangiamenti di temi più o meno conosciuti, più o meno famosi, diciamo, conosciuti tutti, ma insomma più o meno famosi di David Bowie, e dati però appunto cercando di trovare la chiave giusta di interpretazione da parte di questi musicisti che, dove vede forse una preminenza, oltre alla tromba di Paolo Fresu, una presenza molto importante, quantomeno se non preminente, quella di Petra Magoni alla voce, cantante bravissima e soprattutto un'interprete veramente straordinaria, con una vitalità musicale ineguagliabile. Gianluca Petrella al trombone, trombone o elettroniche varie, bravissimo, anche questo si fa, non c'è bisogno certo di dirlo, come peraltro per la chitarra di Francesco Diodati, sicuramente uno dei talenti migliori che è adesso sulla piazza Francesco Ponticelli al contrabbasso, basso elettrico, anzi non contrabbasso, Christian Meyer alla batteria e alle percussioni, appunto. Poi c'è anche la presenza, questo vabbè, è più quasi una nota, di Frida Bollani Magoni, appunto, la figlia di Petra Magoni e di Stefano Bollani, che fa parte delle voci del coro. È già una presenza attiva nella vita musicale questa di Frida Bollani Magoni, perché indubbiamente dimostra di avere una musicalità degna dei genitori. Ecco, ascoltiamo questi due progetti, alcuni brani, due con appunto del trio con Bonaventura e Morellenbaum e tre composizioni di David Bowie, appunto reinterpretate da questo gruppo d'eccezione guidato da Paolo Fresu. Thank you. Rebel, rebel, your face is on. playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to empty space. If you say run, I'll run with you. If you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Let's dance for fear.

Questo era un progetto di Paolo Fresu, che è composto di tre dischi dedicati al festeggiamento dei suoi 60 anni e che vede due inediti importanti, uno che abbiamo ascoltato, quello con in trio con Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Jacques Morellenbaum al violoncello, e il secondo, un progetto dedicato alle musiche di David Bowie, con una schiera di musicisti di primissimo piano, da Pietro Magoni, Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer e oltretutto anche la Frida Bollani. E questo è tutto. Vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujikola, sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima. Sol peanuts. Jazz on megahertz. Sol peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.